Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi per strade di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa, hipster dal capo d'angelo ardenti per l'antico contatto celeste, con la dinamo stellata nel macchinario della notte, che in miseria e stracci e occhi infossati stavano soppartiti a fumare nel buio soprannaturale di soffitte a acqua fredda, fluttuando nelle cime delle città, contemplando jazz che mostravano il cervello al cielo sotto la elevated e vedevano angeli maomettani illuminati, barcollanti su tetti di casermette che si accucciavano in mutande in stanze non sbarbate, bruciando denaro nella spazzatura e ascoltando il terrore attraverso il muro. San Francisco, 25 marzo 1957, piena rivoluzione beat. I pubblici ufficiali, per preservare l'America puritana dallo scandalo, censurano 520 copie di un poema che contiene molti riferimenti espliciti a droghe e pratiche sessuali. Le accuse di oscenità mettono al centro dell'attenzione il suo autore, giovane beat di grande talento, ma se la prendono soprattutto con il suo editore, coraggioso poeta anarchico e pacifista. Si apre un processo che è un susseguirsi di colpi di scena. Il procuratore, Ralph McIntosh, non risparmia particolari sul privato dell'autore, facendo leva sul suo stile di vita dissoluto. L'avvocato difensore Jake Elrich, da sempre impegnato nella salvaguardia dei diritti civili, prova ad aprire gli occhi all'America. 9 esperti di letteratura accorrono per testimoniare in favore dello sfogo tormentato e rabbioso. Da ogni parte degli Stati Uniti arrivano dichiarazioni di solidarietà. Kenneth Patchen, James Laughlin, Barney Rosset, Thomas Parkinson, Robert Duncan stanno tutti dalla parte dell'autore di Hole, Urlo e del suo editore. Sono due grandi protagonisti della Beat Generation. Si chiamano Allen Ginsberg e Lawrence Ferlinghetti. Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti. Questi signori, 5 beat, sono molto diversi fra di loro. Jack Kerouac era il pazzo, il re del beat, senz'altro. Ferlinghetti, l'editore. Ginsberg, il grande poeta. Corso, il pazzo, sicuramente. E Burroughs, il principe Burroughs, il capo di tutti loro. E hanno insegnato quello che ancora oggi tutti noi cerchiamo, il senso della libertà, il pacifismo, il rispetto per gli altri, per le religioni, cioè, tutti i temi fuori dalla letteratura che però sono importanti e sono, costituiscono quello che oggi è, dovrebbe essere vivere civile. Le parole di Emanuele Bevilacqua, autore di Guida alla Beat Generation, raccontano il periodo magico della San Francisco Renaissance, nel quale l'avanguardia poetica diventa traino per una rivoluzione culturale di portata ben più ampia, che avrebbe coinvolto anche la musica, il cinema, la moda e l'arte. Cuore e ritrovo del movimento è la libreria City Lights, fondata nel 1953 proprio da Lawrence Ferlinghetti. Situata inizialmente in Columbus Avenue 261, all'angolo con Broadway Street, nel quartiere italiano di San Francisco che si chiama North Beach, la City Lights deve il suo nome a luci della città di Charlie Chaplin. Dal 2001 ha ottenuto lo status di landmark, che ne conferma la sua importanza sociale e culturale. Ferlinghetti aveva trovato questo piccolo spazio in un edificio costruito dopo il terremoto del 1906 e ne aveva fatto un vero e proprio luogo di culto. Anche oggi la City Lights non ha perso il suo carattere indipendente, nonostante si sia ampliata fino a contare 3 piani. Libri delle maggiori case editrici, ma anche quelli semisconosciuti, e la libertà assoluta ereditata dai Beat. Qui si possono ancora sfogliare i volumi, si può chiacchierare con gli altri lettori, si può perfino lasciare le proprie opere. E intanto, mentre i turisti accorrono da tutto il mondo, Lawrence Ferlinghetti sorride sotto l'insegna del tempio che ha creato. Sembra un anziano signore che ha fatto pace con la vita, sereno come tanti, e invece la sua è una storia incredibile. Basta scalfire la superficie del tempo per tirarla fuori. È la storia che vi vogliamo raccontare. I poeti più importanti non dicono niente oggi. Così come i più importanti pittori e artisti in altri campi non stanno dicendo niente sulla situazione del mondo. Il mondo è in un terribile stato di crisi ecologica. Il mondo è in una terribile situazione politica. I poeti non stanno dicendo niente di tutto questo. Ma quello che è necessario per la più grande poesia sono la rabbia e la passione. Gli abitanti di Chiari, provincia di Brescia, sono poche migliaia alla fine dell'Ottocento e si conoscono praticamente tutti, quando non di persona, di certo indirettamente, attraverso amici e parenti. È per questo che ogni volta che qualcuno parte lo si saluta con calore, come a stringerlo in un grande abbraccio collettivo. È quello che succede a Carlo Ferlinghetti, un giovane di 20 anni che in cerca di fortuna decide nel 1892 di trasferirsi in America. Non ha niente, non una fidanzata, non un lavoro, in tasca soltanto pochi spiccioli. E chi non ha niente, non ha nemmeno niente da perdere. Con le sue scarpe migliori si imbarca sull'enorme transatlantico e si prepara a settimane di navigazione senza mai vedere la terraferma. Ha in testa tanti sogni. Chi è già in America manda di tanto in tanto fotografie che raccontano un mondo nuovo per chi è rimasto in Italia. Un nuovo mondo, come lo chiama il regista Emanuele Crialese. Fermatevi! Dietro la linea, tutti! Oh, wait, a little bit over. Put the bag. Qua, ancora, ancora. On the floor. Già lo tengo. I bagagli per terra. Hands off, sir. Cappello fuori. Sir. Il cappello fuori. Abbassa la testa. Heads down. Abbassate la testa. Abbassa la testa. Okay. Head down. That's it. Va bene. Più giù. Carlo Ferlinghetti lavora sodo per catturare una piccola parte del sogno americano. Vive in un piccolo appartamento di Yonkers, la città attaccata a New York. La mattina prende il treno e si sposta nella Grande Mela, dove fa il banditore a Little Italy. Si parla praticamente solo italiano, ma lui si impegna per imparare un inglese maccheronico che gli dia la possibilità di cavarsela ovunque. Nel 1896, 4 anni dopo il suo arrivo, viene naturalizzato cittadino americano. Decide allora di cambiare il suo cognome nel più facile Ferling. Suo figlio Lawrence non scoprirà di essere un Ferlinghetti fino al 1942, quando gli servirà un documento di nascita per unirsi all'esercito. La mamma di Lawrence Ferlinghetti si chiama Lyons Albertine Mendes Monsanto ed è un crogiolo di razze, francese, portoghese, di famiglia ebrea. La sua bellezza incanta tutti i ragazzi del quartiere. Quando la guardano, lei sfrontata continua a camminare a testa alta. Incontra Carlo a Little Italy e si lascia conquistare dalla sua irruenza perché sente che è diverso da qualunque altro uomo. Si sposano prestissimo e Albertine resta incinta. Ma pochi mesi prima che Lawrence nasca, la tragedia. Suo marito muore e lei si ritrova il 24 marzo del 1919 a piangere con il suo piccolo appena nato in braccio. Sono cresciuto senza padre. Mi hanno fatto vedere una fotografia e su quella fotografia, mettendo insieme i racconti di chi lo conosceva, ho costruito una figura. Chissà se era davvero così. Mi faceva male l'idea che non l'avrei mai conosciuto. Mancava un pezzo della mia storia. Albertina è giovane e disperata. Non regge la perdita di Carlo, non ce la fa ad affrontare tutto da sola. Prima la depressione, poi la pazzia. Lawrence non ha ancora un anno quando la rinchiudono in manicomio. Il bambino viene affidato a una zia acquisita, la francese zia Emily, ex moglie dello zio Ludovico Monsanto, che insegnava spagnolo presso l'Accademia Navale Americana. Emily cresce Lawrence come un figlio. Lo nutre, si prende cura di lui, gli dona tutto l'amore di cui è capace. Decisa a rientrare in patria per un periodo, lo porta con sé a Strasburgo, dove i due stanno 5 anni. E così Ferlinghetti, figlio di un italiano e nato in America, si abitua a usare il francese come sua lingua madre. Al ritorno negli Stati Uniti, Emily si mette a cercare lavoro e non può occuparsi di Lawrence, che per un po' viene messo in orfanotrofio a Chappaqua, stato di New York. Emily entra in ogni bottega per sentire se hanno bisogno, chiede ad amici e parenti, accetterebbe qualsiasi cosa pur di riuscire a guadagnarsi da vivere. Alla fine la sua tenacia la premia. Grazie al suo francese madrelingua, viene assunta come governante presso un'elegante famiglia di New York. Sono Eugene Bisland Presley e sua moglie, Anna Lawrence Bisland, che è figlia di William Van Duser Lawrence, fondatore del prestigioso Sarah Lawrence College. Emily chiede e ottiene che il piccolo Lawrence stia con lei nella tenuta Plashbourne. Ero molto piccolo, avrò avuto 6 o 7 anni, ma mi ricordo benissimo la prima volta che ho messo piede in quella casa. Sembrava di stare in un castello, enormi lampadari, specchi. Loro però con me sono sempre stati molto gentili. Stavo bene. Nel 1926 Lawrence Ferling, questo ancora il suo nome ufficiale, viene lasciato alle cure dei Burslands. Emily sa che deve farlo per il suo bene, perché loro possono offrirgli un futuro che lei non può nemmeno sognare. E infatti, mentre frequenta le scuole migliori, Lawrence può scoprire il suo primo grande amore, quello che lo accompagnerà per tutta la sua vita. La letteratura. Legge tantissimo Lawrence Ferlinghetti. Da ragazzino ha accesso alla grande biblioteca dei Burslands e scopre i classici. Incomincia anche a scrivere racconti e qualche articolo per i giornali locali. Sembra il perfetto bravo ragazzo americano. Si interessa di sport, entra nei Boy Scout, guarda con coinvolgimento e appoggia le scelte politiche dei governanti del suo paese. Nessuno, vedendolo, potrebbe immaginare il suo destino di anarchico e pacifista. Oggi la coscienza del popolo agli Stati Uniti soprattutto e anche in Europa è in coscienza materialista, meccanista, tecnocratico, militarista, fascista. Alla University of North Carolina di Chapel Hill, Lawrence Ferling consegue un diploma in giornalismo. È il 1941, a 22 anni, e già da un po' si occupa di sport per il The Daily Tar Heel. Guadagna poco e niente, ma la passione per quello che fa compensa il tempo speso. Quando Carolina Magazine, per il quale anche Thomas Wolfe aveva scritto, pubblica qualcuno dei suoi racconti, per lui è la gioia più grande. È un ragazzo in apparenza sereno, non ha nulla dello scrittore tormentato che spesso evoca il cliché. Dopo il diploma, passa l'estate nel Maine con due compagni di college. Stanno tutto il giorno su una piccola barca che si sposta nella Casco Bay e pescano aragoste. Rastrellano le rocce per raccogliere il muschio e lo rivendono a Portland, dove verrà usato per scopo farmaceutico. È un'esperienza intensa, emotivamente coinvolgente, che lo porta a un infinito amore per il mare, tema caro a gran parte della sua poesia. Intanto l'America è entrata in guerra. Il 7 dicembre del 1941 i giapponesi attaccano Pearl Harbor. La squadra navale giapponese, al comando dell'ammiraglio Nagumo, è composta da 6 grandi portaerei. Il comandante in capo della flotta giapponese, grande ammiraglio Yamamoto, attacca di domenica perché conosce la consuetudine americana di far rientrare tutte le navi e i marinai alla base per la festività. Qualcuno sospetta che il presidente Roosevelt sia al corrente di questo attacco che colpisce l'orgoglio e la dignità del popolo americano e lo convince della necessità di scendere in guerra. Lawrence Ferling decide di arruolarsi. Gli chiedono un attestato di nascita ed è qui che scopre che il suo cognome per esteso è Ferlinghetti. Si trasferisce a Chicago, dove entra nelle Midshipman School. Poche settimane dopo viene spedito a pattugliare i sottomarini al largo della costa orientale. Successivamente lo mettono di guardia al faro di Ambrose, New York, per identificare tutte le navi in arrivo. È serio, responsabile, crede in quello che fa e si fidano di lui. Nel 43 e nel 44 fa l'ufficiale a bordo di 3 mezzi usati come scorta convogli e come comandante di un cacciatorpediniere partecipa allo sbarco in Normandia. Ai continui trasferimenti della Marina, Ferlinghetti non batte ciglio. Ubbidisce anche quando lo mandano nel Pacifico. Ma questa volta non è come tutte le altre. 6 settimane dopo la bomba atomica lanciata su Nagasaki, si ritrova a visitare le rovine di una città distrutta e la sua vita cambia per sempre. Di fronte alla morte e al dolore, a contatto con la società civile che piange i suoi cari, il suo rifiuto alla guerra è istintivo e radicale. Si chiede come sia potuto succedere, come abbia fatto lui stesso ad accettare ordini militari. Diventa in questo preciso momento il pacifista convinto che conosciamo. 50 anni fa c'erano in senso spirituale, antimaterialista. Oggi national paranoia. Lawrence Ferlinghetti, reduce da un'esperienza dolorosa e indelebile nella memoria, ritorna a New York e per un breve periodo lavora per la rivista Time nei suoi uffici di Manhattan. Intanto si iscrive alla Columbia University per approfondire i suoi studi di letteratura. È un onnivoro, ma le sue preferenze ricadono su scelte ben precise. Adora Shakespeare, Marlowe, i poeti romantici, Gerard Manley Hopkins, James Joyce, così come i poeti americani T.S. Eliot ed Ezra Pound. Nel 1947, con una tesi su John Ruskin e Turner, consegue un master in letteratura inglese. Poi, forte del suo francese ed eccitato all'idea di trasferirsi in Europa dopo averci vissuto da bambino, torna a Parigi. Per 4 anni, dal 47 al 51, si dedica al dottorato e con una tesi brillante ottiene una menzione d'onore all'Université de Paris. Dopo gli anni passati in marina, volevo pensare solo alle cose belle, al piacere di leggere, alle passeggiate, alla vita. Volevo incontrare gente, sorridere. Non sapevo cosa avrei fatto. Mi godevo ogni momento. Ferlinghetti ha 32 anni quando incontra e sposa Selden Kirby Smith. Il matrimonio viene celebrato a Duval County, Florida, e dopo pochi mesi la coppia si trasferisce a San Francisco. Non è una scelta casuale. Quando stava a Parigi, Lawrence aveva incontrato Kenneth Rexroth, promotore di un movimento artistico e letterario che proprio a Frisco si stava sviluppando. Lawrence insegna francese, comincia a dipingere, scrive recensioni, si dedica anche alle traduzioni, per esempio delle poesie del surrealista francese Jacques Prévert. Gliele pubblica Peter D. Martin sulla sua rivista culturale molto diffusa in città, la City Lights, nome ispirato all'omonimo film di Charlie Chaplin. È l'inizio di una nuova vita. Figlio di un immigrato italiano morto prima della sua nascita e di una madre franco-portoghese presto ricoverata in manicomio, ha già vissuto molte vite. A Parigi con una zia, presso una famiglia ricca, dove la stessa zia fa la governante. In marina, arruolato nell'esercito degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. E poi il grande rifiuto, quando visita Nagasaki dopo la bomba e si ritrova distinto e senza possibilità di ritorno pacifista radicale. Adesso, sposato con Selden Kirby Smith, si dedica alla scrittura, alla pittura e alle traduzioni. È Peter D. Martin, editore della rivista City Lights, che pubblica le sue traduzioni delle poesie di Prévert. Peter era un tipo davvero in gamba. Aveva messo in piedi questa rivista culturale, la City Light, che a San Francisco spopolava. Ma d'altra parte era anche il momento giusto. La città era in fermento, stava vivendo la sua rinascita, si respirava un'atmosfera di pace, solidarietà, cultura. Allora ho pensato che con Peter avrei potuto creare una bella libreria dove la gente passasse del tempo e dove trovare libri che non si trovavano nelle altre librerie. Peter ha detto sì e la grande avventura è cominciata. Lawrence Ferlinghetti, con l'aiuto di Peter D. Martin, decide di aprire una piccola libreria nel cuore di San Francisco. Siccome sono entrambi di origine italiana, cercano uno spazio nel quartiere italiano denominato North Beach. È uno spazio piccolo, ricavato all'interno di un edificio che è stato costruito dopo il terremoto del 1906. Ma presto la libreria diventa un vero e proprio luogo di culto che attira artisti, musicisti, scrittori e i giovani che sentono di far parte della controcultura. Qui possono trovare libri di editori semi sconosciuti, chiacchierare tra loro, sfogliare i volumi seduti per terra o sulle poltrone sparse per il negozio. Aveva ragione Ferlinghetti. Il momento è quello giusto. Siamo nel pieno della San Francisco Renaissance. Dopo la guerra, il ritorno di molti membri delle forze armate, una massiccia immigrazione e diffusi atteggiamenti liberali hanno reso il terreno fertile per l'ascesa della Summer of Love, che avrebbe dato vita al 68. Le vie di Frisco sono popolate dai beatnik, i ragazzi della Beat Generation, nomadi che basano la loro esistenza seguendo le leggi di natura, pacifisti, completamente disinteressati all'accumulo del denaro. Rifiutano la cultura puritana e borghese a partire dall'aspetto, abbigliamento anticonvenzionale e capelli lunghi. Gli amici di Ferlinghetti si dedicano al jazz, alla letteratura, sperimentano ogni tipo di sostanza, ricercano i piaceri e l'eccitazione, ma anche la spiritualità. In questo clima di tolleranza e apertura fioriscono anche i movimenti per i diritti degli omosessuali, di cui un paladino è Harvey Milk. 1955, San Francisco. Ogni sera c'è qualcosa da fare, un evento culturale, l'inaugurazione di una mostra nel periodo d'oro della città. Alla Six Gallery c'è una lettura. Il poeta Allen Ginsberg legge per la prima volta il suo Howl, l'urlo, che ha dedicato all'amico Carl Solomon, conosciuto in un istituto psichiatrico. Nessuno sa esattamente di cosa parli, ma sono tutti lì, beat e curiosi, in attesa di ascoltare le sue parole. Ferlinghetti è seduto in prima fila, trepidante, e quando Ginsberg comincia è un fiume in piena. Mai nessuno ha raccontato tanta rabbia e tormento. Ho visto le migliori menti della mia generazione che mangiavano fuoco in hotel ridipinti o bevevano trementina in Paradise Alley. Morte, o si purgatoriavano il torace, notte dopo notte, con sogni, con droghe, con incubi, occhi aperti, alcol e cazzo e balle sballi senza fine, che vagavano su e giù a mezzanotte per depositi ferroviari chiedendosi dove andare, e andavano senza lasciare cuori spezzati. La storia di Irwin Allen Ginsberg comincia a Newark, New Jersey, il 3 giugno del 1926. Il cognome rivela la sua origine ebraica. Suo padre, Louis Ginsberg, fa il professore di liceo e si diletta con la poesia nel tempo libero. Sua madre, Naomi Livergren Ginsberg, è una donna straordinaria, dall'infinita complessità. Membro attivo del Partito Comunista, lotta per la difesa dei diritti dei più deboli, si fa portavoce del femminismo, si occupa dei poveri. Ma tutta questa energia contrasta con la sua malattia mentale, un raro disturbo psicologico che chi le sta vicino intuisce di tanto in tanto, ma che mai le verrà correttamente diagnosticato. Allen, così come lo chiamano tutti fin da piccolo, ha un fratello, Eugene. La mamma li porta spesso con lei alle riunioni del partito ed entrambi ereditano grinta e valori. Tanto che ancora adolescente, già infatuato della scrittura, il futuro poeta Allen Ginsberg comincia a scrivere al New York Times lettere di fuoco su questioni politiche attuali come la Seconda Guerra Mondiale e i diritti dei lavoratori. Mia madre era molto fiera di me, del fatto che io fossi coinvolto quanto lei dalle questioni sociali. Mentre i miei coetanei giocavano a baseball, io me ne stavo in casa a discutere della guerra, dell'importanza dell'istruzione. Eppure il rapporto con sua madre non è tutto rose e fiori. Dipende soprattutto dal suo umore, da come lei sente quel giorno. C'è un episodio, uno tra i tanti, che Ginsberg non dimenticherà mai. Quando è un giovane studente, deve accompagnare sua madre dal suo terapeuta. Prendono l'autobus ed è un viaggio lunghissimo e infernale. Di questo e di molto altro scriverà nel suo poema autobiografico dal titolo Kaddish per Naomi Ginsberg, 1894-1956, quasi a commemorare, da omosessuale dichiarato, l'unica donna al centro della sua vita. 1943. Allen Ginsberg ha 17 anni, quando si diploma alla East Side High School. È timido, ma dentro di sé ha la rivoluzione. Ubbidiente e riservato, gira a testa bassa per i corridoi del Montclair State College, con il suo libro di poesie di Walt Whitman sempre sotto braccio. Grazie a una borsa di studio riesce a entrare alla prestigiosa Columbia University, ma dura poco. Due anni dopo, per poter continuare i suoi studi, entra nella Marina Mercantile. L'esigenza di cavarsela da solo e di reagire agli eventi con la grinta che sua madre ha cercato di trasmettergli lo porta a lanciarsi a capofitto nella scrittura. Contribuisce allora alla crescita della rivista letteraria Columbia e all'umoristico Jester. Lo eleggono all'unanimità presidente di una discussione letteraria all'interno del campus e arrivano anche i primi premi di poesia. È stato un periodo molto bello della mia vita. Facevo esattamente quello che mi piaceva fare. Ed è stato lì che ho capito che non avrei mai smesso. Alla Columbia, Ginsberg fa un incontro importante. È quello con Lucien Carr, un giornalista che si circonda di un gruppo di amici legati dal credere fortemente nel potenziale dei giovani americani, consapevoli che ci sia un'alternativa al conformismo preteso da McCarthy. Con Carr, Ginsberg cita Rambeau e la sua nuova visione per parlare del futuro della letteratura e dell'America stessa. Ed è così che Carr decide che anche lui può far parte del gruppo. Gli presenta i membri del nascente movimento Beat: Kerouac, Burroughs, Holmes e Cassidy. L'innamoramento di Ginsberg per quest'ultimo è raccontato nel primo capitolo della pietra miliare della letteratura Beat, On the Road di Jack Kerouac, dove Carlo Marx è Ginsberg e Dean è Neil Cassidy. Fu quella la sera in cui Dean conobbe Carlo Marx. Un incontro fantastico, quello di Dean con Carlo Marx. Due menti acute come le loro. Fu un vero colpo di fulmine. Due occhi penetranti fissarono due occhi penetranti. L'imbroglione santo dalla mente scintillante e l'imbroglione poetico e dolente dalla mente oscura di nome Carlo Marx. Da quel momento in poi vidi pochissimo Dean e mi dispiacque anche un po'. Le loro energie si scontrarono frontalmente. Io ero un pagliaccio al confronto, non riuscivo a star loro dietro. Il folle vortice delle cose che accaddero dopo prese forma allora. Avrebbe travolto tutti i miei amici e tutto quello che mi restava della famiglia in una grande nuvola di polvere sopra la notte d'America. A destini incrociati siamo alla fine degli anni 40 e Allen Ginsberg, giovane letterato con la passione per la poesia, alla Columbia University ha appena incontrato il primo nucleo di scrittori Beat. Kerouac e gli altri hanno una visione completamente nuova del mondo. Libertà, vagabondaggio, una vita da vivere alla giornata senza alcuna inibizione. Nel suo appartamento di Harlem, durante la lettura di una poesia di William Blake, Ginsberg ha quella che definisce un'allucinazione uditiva, sostenendo di aver sentito la voce dello stesso Blake. Quando gli chiedono se fosse sotto l'effetto di droghe, risponde di no, ma poi prova invano con diversi farmaci e sostanze a ricreare quel momento. Al Pony Stable di Greenwich Village, primo bar apertamente lesbico, Ginsberg incontra Gregory Corso, appena uscito dal carcere, e resta così colpito dalle sue poesie che lo presenta subito agli altri Beat. Tra di noi non c'erano invidie. Gioivamo quando qualcuno di noi scriveva qualcosa di bello e cercavamo di aiutarci a vicenda, come potevamo. All'inizio degli anni 50, il cuore del movimento Beat è San Francisco, che sta vivendo la sua rinascita. Si ritrovano tutti alla libreria City Lights, appena aperta da Lawrence Ferlinghetti, che sta pensando di reinventarsi anche come piccolo editore. È arrivato anche Allen Ginsberg e sta scrivendo il suo primo poema, furioso, incandescente, che racconta tutto il tormento di una generazione. Titolo: Howl, l'urlo. Niente di più esplicito. La libertà d'espressione lascia che la creatività spicchi il volo, in questo periodo dal sapore magico, in una città a Frisco, dove tutto sembra possibile. Una cultura nuova, una controcultura, ma anche una nuova America che si lascia alle spalle il disastro della guerra e le persecuzioni del maccartismo. Wally Hedrick, pittore, ha fondato una piccola galleria aperta a tutti gli artisti e l'ha chiamata Six Gallery. Un giorno, mentre sta chiacchierando seduto sullo scalino di un negozio di fiori con Ginsberg, gli chiede a che punto è con il suo poema. Le parole mi uscivano come un fiume in piena. Andavo avanti per ore senza fermarmi. Parlavo di droghe, della mia esperienza al manicomio, di sesso. Quello che mi interessava esprimere con Howl era il coinvolgimento del poeta stesso. Per questo usavo i versi lunghi, perché alla fine di ognuno dovevo tirare un respiro. Era come unire lo stato fisico con quello emotivo. Hedrick chiede all'amico di organizzare una lettura nella sua galleria. Ginsberg sulle prime rifiuta, ma poi accetta. Non c'è miglior modo per dare sfogo alla sua urgenza di scrittore che far sentire a un pubblico vero il suo rapporto viscerale con le parole. E così la voce si sparge e arrivano tutti per sentire quel ragazzo un po' strano che almeno, si dice, ci sa fare. Lo strampalato poeta Peter Orlovsky, che sarebbe rimasto il compagno di Ginsberg per una vita intera, siede emozionato nelle prime file. Poco distante da lui c'è Lawrence Ferlinghetti. Gli basta sentire l'incipit rabbioso per decidere che Howl è il poema che aspettava di pubblicare. Nel destino di Allen Ginsberg c'è Lawrence Ferlinghetti. Ho visto le migliori menti della mia generazione che trombavano in limousine col cinese di Oklahoma su impulso invernale mezzo notturno in lampionata pioggia di provincia, che ciondolavano affamate e sole per Houston cercando jazz o sesso o zuppa e seguivano quel brillante spagnolo per conversar d'America ed eternità, tempo sprecato, e poi via per nave in Africa. Scandaloso, crudo, esplicito, questo e molto altro è Howl. I motivi che convincono immediatamente Ferlinghetti a pubblicarlo, però, sono gli stessi che convincono le autorità a metterlo al bando per oscenità. Il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti garantisce la terzietà della legge rispetto al culto e il suo libero esercizio, nonché la libertà di parola e stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e il diritto di appellarsi al governo per correggere i torti. La messa al bando di Howl diventa il simbolo della lotta contro chi fa finta che questa legge non esista. Imputati nel processo sono l'editore Lawrence Ferlinghetti, colpevole di aver pubblicato il poema, e l'autore dello stesso, Allen Ginsberg, che nel frattempo, dopo un breve periodo in Marocco, si sta per trasferire a Parigi con il suo compagno, in una stanza squallida di quello che sarebbe passato alla storia come il Beat Hotel. Non era un semplice processo. Era il simbolo di una generazione che voleva cambiare le cose. E io ero lì per difenderla, quella generazione. Sapevo che con quella pubblicazione avrei potuto dare un segnale al mondo. Ferlinghetti sa cosa sta succedendo. Il processo di Howl sancisce ufficialmente la nascita della controcultura della Beat Generation, che ha lasciato tracce indelebili nella storia dell'umanità. Il processo va avanti per mesi e la pubblica opinione si schiera su due fronti contrapposti. Da un lato i puritani, dall'altro i difensori della libertà. Il procuratore Ralph McIntosh scava nel privato di Ginsberg, rendendo sempre più torbidi i particolari legati all'uso di droghe e alla sua omosessualità. Jake Ehrlich, invece, l'avvocato difensore e paladino dei diritti civili, si prodiga perché l'America la smetta di ragionare da ipocrita. E quest'ultimo ad avere la meglio. Con il supporto dell'Unione per le Libertà Civili Americane, Ferlinghetti vince la causa, quando il giudice Clayton Horn definisce il poema di importanza sociale riedificante. È una vittoria senza precedenti, un caso simbolo che si eleva a bandiera. Dal Time al New York Times, tutti i giornali danno rilievo all'esito e assicurano la diffusione del volume. Howl fa il giro del mondo. Ginsberg non ha mai smesso di scrivere. La sua ultima poesia è datata 30 marzo 97, pochi giorni prima della sua morte per cancro. Ferlinghetti, ormai un arzillo vecchietto, posa ancora sotto l'insegna della sua City Lights, orgoglioso di aver riscritto la storia. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.